a ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. 12 di questi porti, società, aziende hanno manifestato il loro interesse, collocati in 6 paesi. Di queste 12, 5 sono sul territorio nazionale. Noi contiamo, entro il mese di marzo, di arrivare alla individuazione del porto di destinazione. È arrivata in una notte d'inverno, se ne andrà sotto il sole dell'estate, davanti agli occhi dell'intera isola e di mezzo mondo. Se i tempi che il commissario straordinario Franco Gabrielli annuncia saranno rispettati, la Concordia lascerà l'isola del Giglio a giugno, diretta verso il suo ultimo approdo, quello che sarà stabilito a marzo. Due tappe precise sul calendario che fanno infiammare di nuovo la guerra tra porti, tra l'Italia e l'estero e tra i porti italiani tra di loro. Tutti vogliono accogliere la grande nave, simbolo di una sciagura costata la vita a 32 persone, storia seguita in mondovisione come poche altre, ma ora pure un affare da 300 milioni di dollari e un lavoro per almeno 3 anni in grado di rilanciare poli siderurgici boccheggianti. Palermo, Genova, Civitavecchia e Piombino, queste le città italiane in gara che devono contendersi con Aliaga, vicino Smirne, in Turchia, o con Marsiglia, o ancora tra gli altri pure con la Cina, la grande occasione. E ciascuno sfodera le proprie armi e il ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, non nasconde che il governo vorrebbe una soluzione interna. Per noi non è indifferente per molte ragioni il porto di destinazione. Tra la soluzione del trasporto col traino e quella col hangar preferiamo la prima. Questo è legato anche naturalmente al porto di destinazione perché, come è stato spiegato, la possibilità di trainare la nave è legata al fatto che il porto deve essere un porto a portata di mano, quindi un porto italiano, direi questo. In questo senso non credo di turbare la procedura che è stata seguita se dico che il governo italiano, il Ministero dell'Ambiente, preferirebbe anche per mettere in campo un'eccellenza della gestione che esiste nel nostro Paese, della gestione delle fasi ulteriori, preferirebbe una destinazione nazionale. E non credo di turbare la procedura che è stata scelta se dico che per le ragioni che ho richiamato, penso che corrisponda anche ai miei doveri di istituto chiamare l'insieme dei porti italiani coinvolti per fare il punto sulla capacità di proporsi e di attrezzarsi in vista delle esigenze che sono state poste con il bando. Il porto più vicino senza dubbio è Piombino, dall'altra parte del mare. Qui due diverse cordate si sono fatte avanti per cercare di afferrare la Concordia e con essa la speranza di rilancio dell'intera area dove troppe ciminiere ora non fumano più da tempo e con la crisi della Lucchini l'intera filiera dell'acciaio è in affanno. La Concordia, per questo, da questa parte del mare non ha tanto l'ombra funesta della morte che ha custodito per mesi quanto il luccichio della ripartenza che potrebbe favorire centinaia di famiglie. E per questo a Piombino stanno facendo la corsa contro il tempo per essere in grado di accogliere la Concordia e sono disposti pure a fare 3 turni di lavoro per completare quelle opere di ampliamento e di ammodernamento del porto che al momento non ha dunque ancora le caratteristiche tecniche per le dimensioni della Concordia. Ma a giugno ci saremo, siamo in partita, assicura il presidente dell'autorità portuale, Luciano Guerrieri. La prossima settimana consegniamo parte dei lavori preliminari, presentano eliminazione interferenze, installazione cantiere, sminamento a mare, tutta una serie di aperture di piste, cose che praticamente una consegna parziale dei lavori per arrivare a fine mese alla consegna complessiva. Cioè, quindi voi per fine giugno quantomeno considerate di poter essere in grado di poter accogliere la Concordia nel caso in cui... Noi abbiamo sempre indicato circa 6-7 mesi e avendo la possibilità di recupero per un lavoro del terzo turno, non so se si ricorda, noi avevamo fatto tutti i nostri conti di cronoprogramma per due turni lavorativi al giorno per 5 giorni la settimana. Certo, quindi, con la possibilità però di portarli fino a 3 turni. Di fare 3 turni e 7 giorni su 7 probabilmente dovremo utilizzarli. Quindi, ecco, e con questa previsione per arrivare alla chiusura quando? Diciamo la previsione più o meno è quella, insomma, ecco, finiscono loro, dovremmo finire noi, ecco, più o meno. Cioè, quindi dovreste finire più esattamente nello stesso momento, quindi cioè voi contate che il porto sia bello che è rimesso a posto e quindi eventualmente anche in grado di accogliere la Concordia entro giugno? Sì, giugno, primi di luglio. Ecco, Presidente, però non è un po' troppo al limite, nel senso che se loro... Io non faccio mica le corse con nessuno, no? Facciamo quelle cose possibili. Noi procediamo per la nostra strada, Costa procede per la sua, le opere che facciamo sono utili al porto, naturalmente sono anche idonee per accogliere la nave. Insomma, io ho avuto da agosto la possibilità di sapere quali erano le risorse su cui potevo contare, ho fatto una gara europea, ho individuato l'impresa e sto riempiendo tutto. E parto con i lavori. Meno di questo tempo per noi è impossibile. I dati progettuali ci dicono che ce la possiamo fare. Quindi comunque vi sentite ancora pienamente in gara, diciamo. I tempi non vi danneggiano. No, sono tempi che conoscevamo. La cosa nuova è che decidono a marzo. Noi gli abbiamo dato una accelerazione forte, terribile, però un'accelerazione possibile per cogliere anche questa contingenza e questa eventualità, che per noi sarebbe importante. Certo, sarebbe importante perché in qualche modo potrebbe fare da volano al rilancio di un'intera area e soprattutto ad un fare del porto di Piombino, come mi spiegava già, insomma, anche un polo dove è possibile fare l'intera filiera, diciamo così, no? Renderla un po' specializzata poi, anche nella... Guardi, tanto fra un mese e mezzo, due, insomma, vedremo. E quanti porti nel Mediterraneo effettivamente si stanno organizzando, hanno lavori in corso, in tempo per arrivare, diciamo, a cogliere l'obiettivo. Noi sicuramente li avremo lavori in corso per arrivare a questo obiettivo, altri non lo so. L'intera città in qualche modo ci conta, ci spera. Sicuramente, sicuramente. Questa vicenda per noi si intreccia anche con le problematiche dello stabilimento siderurgico Lucchini e sulla base di questo le nostre istituzioni stanno valutando la possibilità di fare una piattaforma di smaltimento e di demolizione e riciclaggio navi secondo il recente regolamento comunitario che è stato appena approvato. Il recupero del materiale ferroso, dell'acciaio delle navi può essere impiegato a chilometro zero nei nostri stabilimenti. Ci sentiamo in piena corsa per poter partecipare anche a questa decisione. Sono convinti a Piombino che il governo, anche come risarcimento per il danno che la Toscana ha avuto da questo naufragio e per il ruolo che invece in passato la città ha ricoperto a sostegno dell'economia nazionale, sono convinti a Piombino che l'esecutivo dovrebbe assegnare anche per questo a loro questa commessa, ma temono che la partita si giochi su più tavoli e con più interlocutori. Piombino non è in grado di accogliere il relitto per gravi carenze strutturali, scriveva Fincantieri nei mesi scorsi in un dossier chiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Genova, invece, è il più grande porto commerciale del Mediterraneo e a Palermo i cantieri navali hanno già un bacino in grado di ospitare un colosso di 290 metri che diventeranno ancora di più considerando che la Concordia andrà trainata o caricata sopra la Vanguard, la più grande nave cargo del mondo. E anche per il capoluogo siciliano, come per la città toscana, avere la Concordia significherebbe rianimare un'area fortemente depressa e poi ad occupare occuparsi della demolizione sarebbe la stessa Fincantieri che quella nave l'ha costruita. E questo per noi è senza dubbio un aiuto in più, ammette il commissario dell'autorità portuale di Palermo, Vincenzo Cannatella. Il cantiere navale che è legato all'autorità del porto di Palermo ha le strutture per poterlo fare. Sarebbe una boccata di ossigeno per le maestranze non indifferente. Quello diciamo sicuramente. Non ha bisogno di, diciamo, il porto non ha bisogno di, diciamo, delle strutture del cantiere navale già sono adeguate per fare il lavoro che devono fare. Il ruolo e la presenza di Fincantieri chiaramente per voi è una marcia in più. Certo. Noi abbiamo proprio una struttura Fincantieri che è proprio attaccata al porto di Palermo. Non è il porto di Palermo la sua autorità, evidentemente è la struttura di cantiere, del cantiere che ha la sua valenza e ha anche il bacino per poter fare questa operazione. Cioè, l'avere in possesso i piani di lavoro, i piani di costruzione evidentemente sanno dove mettere le mani per la demolizione e credo che nel passato abbiano fatto anche degli adeguamenti su questa nave. Posto Concordia, sì. Di sicuro però rappresenterebbe, lei diceva, una boccata d'ossigeno per la città di Palermo e per la cantieristica siciliana. Per la cantieristica perché parecchie persone sono in cassa integrazione da anni, poi il porto di Palermo è specializzato sulla modifica di navi, su lavori di nicchia che sicuramente la rendono competitiva rispetto ad altri porti. Fincantieri farà a Palermo l'adeguamento di parecchie navi, credo 4 di alcune navi della MSC Crociere. Questo della Concordia non ha precedenti? No, questa della demolizione di queste dimensioni no, ma altre navi sono state demolite a Palermo, specialmente Palermo, il sud è boccheggiante, insomma, sarebbero migliaia di ore di lavoro che porterebbero una boccata di ossigeno. Insomma, sarebbe ingiusto se andasse all'estero. E l'ingiustizia di fronte ai conti, io non lo so. Costerebbe molto di meno fatto all'estero? Si dice di sì, io non lo so, però non consideriamo anche le spese di trasporto. Partire a Palermo ha dei costi diversi perché noi in Italia osserviamo tutte le procedure per lo smaltimento dei rifiuti. Noi abbiamo una legge Ronchi che è severa nello smaltimento dei rifiuti. E cosa succede di una nave che viene smaltita in Cina? Lei immagina? Da immagine di morte a speranza di guadagno, la Concordia cambia ancora una volta pelle e si prepara a lasciare l'isola del Giglio, dove è rimasta per 2 lunghi anni con le sue 2 opposte facce. Quella candida, traccia della crociera e dei divertimenti che prometteva a bordo ai 4.000 ospiti, e quella nera, corrosa dal mare, dalla ruggine, sventrata dagli scogli, come bombardata, simbolo del naufragio e della sciagura. Le due facce continueranno in un certo senso a convivere anche nel porto finale della Concordia, perché mentre la grande nave sarà smembrata pezzo dopo pezzo, altri palazzi del mare, con le loro luci luccicanti, attraccheranno non troppo lontano. A ciascuno il suo. Mi fa tristezza perché ho un grande rapporto con il mare, quindi le navi per me sono qualcosa quasi di vivo. Cioè mi dà moltissima tristezza il sapere che verrà fatta a pezzi, perché lì c'è stata mia moglie alcune volte e tornava felice da quella nave. Sul porto dell'isola del Giglio si perdono nel vento le lacrime e le parole di Elio Vincenzi, marito di Maria Grazia Trecarichi, una delle vittime del naufragio della Concordia. Quella grande nave, imponente con le sue due facce, quella della vacanza che doveva essere e quella della sciagura che invece è stata, sarà smantellata presto, pezzo dopo pezzo. E per i familiari delle 32 vittime è come perdere l'ultimo contatto col luogo ultimo dove quelle donne, quegli uomini e quella bimba hanno vissuto i loro ultimi momenti di vita. Dopo 2 anni, prima adagiata su un fianco, poi rimessa in piedi, la Concordia lascerà infatti l'isola del Giglio a giugno, calcola Franco Porcellacchia, l'ingegnere capo dei lavori per Costa Crociere. Tutto questo ci porta a considerare come obiettivo raggiungibile il rigaleggiamento della nave entro giugno. O trainata o trasportata dalla più grande nave cargo, la Concordia d'estate farà il suo ultimo viaggio prima di approdare in quel porto, che avrà innanzitutto le caratteristiche tecniche necessarie per accogliere un colosso così. Non ha infatti precedenti in Italia lo smantellamento di una nave di queste dimensioni. Abbiamo guardato a tutte le realtà che c'erano sia in Italia che all'estero, abbiamo dato le indicazioni che sono quelle costanti che fin dall'inizio nell'assegnazione del progetto di rimozione sono sempre state dei capisaldi, vuol dire rispetto dell'ambiente, sicurezza, tempistica. Pensiamo entro febbraio, forse ai primi di marzo, all'inizio di marzo, di poter avere un'idea e di poter anche indirizzarci verso una scelta di quello che è il porto dove la nave dovrà essere portata per essere appunto smantellata. Mi preme sottolineare che uno degli aspetti fondamentali nella scelta è la capacità del porto stesso di ricevere un mezzo come questo, che avrà, quando sarà galleggiante, une dimensioni estreme, nel senso che la lunghezza sarà quasi 300 metri, la larghezza sarà 62 metri e mezzo, quindi è qualcosa di non convenzionale per quanto riguarda il mondo marittimo, ma soprattutto l'immersione, riteniamo, secondo i calcoli che abbiamo fatto, che possa essere dell'ordine di 18 metri e mezzo. Tenete conto che una nave come questa, quando è integra, pesca 8 metri e mezzo. Colosso che è però anche un grande affare da 300 milioni di dollari per quel porto che si aggiudicherà la commessa, ed è per questo che il calendario tracciato dell'addio della Concordia dal Giglio ha riaperto di nuovo la guerra tra i porti candidati, 12 in totale, 4 quelli italiani, la vicina Piombino dove ci sono i progetti di due diversi gruppi, Palermo dove se ne occuperebbe la stessa Fincantieri che l'ha costruita, come abbiamo sentito nella prima parte di A ciascuno il suo, poi Civitavecchia e di sicuro anche Genova, il più grande porto commerciale d'Europa. Siamo l'eccellenza e siamo già pronti a ricevere la Concordia, si sbilancia Luigi Merlo, presidente dell'autorità portuale genovese, che spera che in questa partita, dice, non intervengano motivi di tipo politico. Non ci sentiamo in pole position, ci sentiamo nelle condizioni di poter dare un'opportunità dal punto di vista sia delle condizioni infrastrutturali, sia degli operatori privati, che sono l'eccellenza a livello mondiale nel settore delle riparazioni, e quindi è una candidatura legittima e positiva, la proposta viene dai privati, ma è chiaro che bisogna essere rispettosi del percorso avviato da Costa, sappiamo che c'è prima un percorso legato a Piombino, sulla base delle risultanze di Piombino essere pronti ad avere un piano B, questo mi sembra un percorso assolutamente corretto, anche perché non si può ulteriormente far sostare la nave al Giglio, e qui noi l'abbiamo detto da diversi mesi, siamo disposti a fare quanto necessario, anche se già le condizioni sono condizioni già buone per poter accogliere una nave con quelle dimensioni, con quelle caratteristiche. Ecco, quindi anche il porto di Genova dovrebbe, per poter accogliere la Concordia, fare delle operazioni. Al limite c'è qualche intervento, qualche metodo di dragaggio, a seconda del pescaggio che sarà della nave, insomma, ma dal punto di vista infrastrutturale non sono necessari interventi. Quanto tempo avreste bisogno per rendere tutto possibile nel caso in cui fosse Genova? Ma io penso qualche settimana, saremmo perfettamente nei tempi. Da un punto di vista di competenze, diciamo, ci sono le caratteristiche a Genova per poterlo fare, anche come competenze manuali? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci sono tre principali operatori nell'ambito delle costruzioni e delle riparazioni navali, ci sono professionalità consolidate, ci sono tutti i servizi già in loco, quindi da questo punto di vista possono determinare anche delle economie di scala. Ma secondo lei questa sarà una partita che andrà soltanto su piani, diciamo, di tipo tecnico, o piuttosto ci saranno anche scelte di tipo politico? Perché non nascondiamoci che è un grande affare da 300 milioni di dollari. Ritengo e auspico che sia solo di carattere tecnico, perché come dire, un intervento talmente complesso, delicato e particolare, che o ci sono le caratteristiche o queste caratteristiche non può darla nessuna indicazione di carattere politico, insomma, da questo punto di vista. Dobbiamo essere rispettosi di un percorso, ora c'è un percorso che riguarda Piombino, essendo rifiuto ci sarà un ruolo diretto importante della regione toscana, e importante che ognuno di noi, come dire, costruisca le condizioni e che soprattutto rimanga in Italia, perché questo credo che sia il primo obiettivo da raggiungere. Se andasse all'estero, secondo voi sarebbe sbagliato? Beh, sarebbe un'opportunità per... Sarebbe un po' un'offesa all'Italia? Un'offesa, quando c'è le condizioni di carattere economico, come dire, come dire, prevalgono diversi fattori. Lei ha definito questa operazione un'operazione in vitro. Avevo definito la questione di Piombino un'operazione in vitro, nel senso che si andava a creare dal nulla una struttura per fare un certo attività, nel senso che non c'è in quell'area una tradizione nell'ambito delle riparazioni e delle costruzioni navali, e quindi questa cosa rendeva l'operazione di Piombino più complicata, comprensibile come elemento di risarcimento per la regione toscana, ma non andava a intervenire in un'area storica dove ci sono ambiti nel settore delle costruzioni e delle riparazioni consolidati magari da qualche secolo. Una guerra tra porti, seguita a distanza dall'isola del Giglio. Qui, alla grande nave, estrema propaggine degli scogli della Gabbianara, hanno fatto loro malgrado un po' tutti l'abitudine. E avere un'indicazione più precisa dei tempi è un sollievo, ma temiamo che anche questa stagione turistica sarà compromessa, prevede il sindaco Sergio Ortelli, senza dimenticare tutti i lavori di ripristino ambientale che poi andranno ancora fatti. Non finirò mai di dirlo. Le tempistiche sono dei valori che bisogna prendere sempre con molta cautela, perché ci sono molte variabili che poi le determinano, il mare, le condizioni del mare, quindi le condizioni meteoclimatiche, le questioni anche tecniche, per cui la prospettiva che a giugno la nave vada via la prendiamo come una notizia molto importante, però chiaramente sempre con quella cautela. La prossima stagione comunque voi la considerate un po' compromessa? Fine giugno siamo già nella stagione intensa, quindi dire o affermare che la stagione è completamente liberata da una vicenda così tremenda e dalla presenza appunto di un relitto è abbastanza forte, non mi viene di dirlo. Quindi una stagione che comunque vedrà per almeno il 50% di essa la sovrapposizione delle operazioni, ecco. Cioè, quindi da una parte la stagione estiva, dall'altra diciamo tutta questa fase finale legata ai lavori significativi al cantiere che c'è intorno alla Concordia. Esatto, però ancora una volta, quindi mezzi navali che niente hanno a che vedere con la nostra vocazione turistica, quindi la nostra vocazione naturale, quindi mezzi che non devono più circolare nel porto e che chiaramente saranno il segnale di una rinata isola e di un rinato turismo che non aspetta altro questo momento. Ecco sindaco, però non ci dimentichiamo che anche nel momento in cui la Concordia verrà portata via, per voi all'isola non sarà ancora del tutto finito, perché ci saranno tutte le operazioni di ripristino ambientale. Sì, però ripeto, il cantiere che oggi in qualche maniera invade una delle parti più belle dell'isola non ci sarà. Poi i mezzi che dovranno garantire la mitigazione ambientale, il recupero ambientale e il ritorno alla normalità, ecco, quello forse sarà un momento che accetteremo senza fare tante storie. La campana della Concordia fu rubata quando ancora si cercavano i corpi dei dispersi e nient'altro della nave resterà a terra sull'isola. Ma tutto il Giglio si sta preparando al grande addio alla Concordia. Una targa sugli scogli della Gabbianara ricorderà il naufragio in una notte d'inverno della nave che prometteva una vacanza da sogno e che invece divenne tomba per 32 persone. A ciascuno il suo, termina qui. Per riascoltare tutte le puntate il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, ricordate Storiacce, e sul blog appunto Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.